buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Alma, sono le 21.03 e con qualche minuto di ritardo iniziamo questa trasmissione di oggi, 25 luglio 2011. E prima di cominciare e di presentarvi quindi l'argomento, comincerei a presentarvi le persone che sono qui con me. Allora, Anna Maria. Buonasera Anna Maria. Buonasera a tutti. Poi c'è un ospite molto speciale, Jacopo. Buonasera Jacopo. Buonasera. Fai sentire la tua voce. Buonasera. Poi abbiamo Francesco. Buonasera a tutti. E infine Maite, che avete già sentito in altre puntate di Dei colori dell'anima. Buonasera a te Maite. Buonasera Rosanna, buonasera a tutti voi e a tutti gli ascoltatori, che speriamo siano numerosi. Benissimo. Allora, oggi, quindi in questa trasmissione Dei colori dell'anima, che come sapete va in onda ogni lunedì dalle 21 alle 22, parleremo di diciamo così, di due argomenti. Allora, parleremo di famiglia e ne parleremo un po' in generale, dicendo probabilmente delle informazioni che sono già conosciute, ma utilizzeremo questo argomento anche per parlarvi di un elemento un po' più nuovo, meno conosciuto, diciamo così, che si chiama coabitazione, oppure in inglese co-housing. Allora, per parlare della famiglia, vi leggo un brano che ho trovato su internet e poi vi dico da dove viene questo brano. Allora, questo brano dice: la struttura della famiglia moderna, intendendo quella creatasi negli ultimi 50 anni, si può ormai definire praticamente opposta a quella di inizio secolo, che era di tipo patriarcale, dove il padre e quindi il marito era un padre padrone e la coniuge, insieme ai figli, ricopriva un ruolo strettamente marginale. Moltissimi sono gli aspetti che si sono modificati. Innanzitutto è diminuito il numero dei suoi componenti e questo cambiamento è stato determinato dal miglioramento delle condizioni economiche dal dopoguerra ad oggi. Nonostante possa sembrare un controsenso, una diminuzione dovuta ad un incremento, bisogna considerare che con questo sviluppo si annulla il bisogno che i figli affrontino il mondo del lavoro prima del necessario. Cioè, mentre 50 anni fa era essenziale per il sostegno economico del nucleo familiare il lavoro offerto dai figli, di conseguenza i genitori possono finalmente offrire una cultura che può arrivare fino all'università, ovviamente non a 7-8 figli, certo dipende anche lì dalle famiglie, ma di certo a uno o due figli. È chiarissimo anche il cambiamento della posizione della donna nella nostra società. Da circa 20 anni a questa parte le donne hanno acquistato diritti a loro negati precedentemente. È usuale che anche la donna lavori e abbia gli stessi orari dell'uomo. In questo modo l'educazione dei figli viene divisa fra i due coniugi e non è più compito della sola madre. Questo aspetto è sicuramente positivo, dal momento che, oltre ad attribuire alla donna tutti quei diritti che fino a poco fa non le venivano riconosciuti, mette sicuramente in risalto il ruolo del padre verso i figli, che vengono educati anche da questa figura che fino a pochi anni fa i figli vedevano come qualcosa di troppo lontano. Allora, questo testo continuerebbe, in realtà io interrompo qui, ma era un tema di un ragazzo di una quarta classe di una scuola media superiore di Salerno che ho trovato sul sito doc.studenti.it e mi è piaciuto menzionarlo perché effettivamente andando a cercare fra i compiti di questi ragazzi si trovano degli spunti molto interessanti, quindi veramente l'ho voluto sottolineare anche come un merito per la scuola. A quanto scritto giustamente dal nostro studente, possiamo aggiungere che la famiglia patriarcale era una famiglia orientata verso le posizioni. Si tratta di un tipo di famiglia regolata da una rigida divisione dei ruoli, al cui vertice vi era il padre e marito. Successivamente, nelle relazioni domestiche, si è andata affermando la famiglia coniugale intima, cioè un tipo di famiglia in cui, indipendentemente dalla struttura, è presente un sistema di ruoli più flessibile e meno legati al sesso e all'età. Il tipo di famiglia moderna, infatti, è orientata verso le persone. La distanza sociale tra i vari membri è minore ed i rapporti sono più distesi. Questo tipo di famiglia prima è apparsa tra le persone colte della borghesia, poi si è diffusa negli altri strati sociali, quello impiegatizio, quello commercianti e infine degli artigiani e degli operai dell'industria. Ecco, Anna Maria, a questo vorrei aggiungere che la trasformazione della famiglia causata dalla conversione dell'Italia da un paese prevalentemente agricolo ad uno industriale non ha, tuttavia, ancora cancellato ogni traccia del vecchio modello. Ci sono ancora abitudini e modi di pensare che legano la famiglia del passato a quella del presente. In primo luogo, a livello della vita quotidiana, le famiglie italiane, anche se non sempre, però almeno una volta al giorno cercano di riunirsi per un pasto che può essere probabilmente spesso la cena, insomma dipende poi anche dalle famiglie, giusto? Sì, infatti spesso la cena è un momento di dialogo tra i genitori e i figli, uno dei pochi nei quali tutti i membri della famiglia hanno la possibilità di stare insieme. In secondo luogo vorrei aggiungere che pur essendo una famiglia nucleare non è raro che uno dei nonni paterni o materni, specialmente se vedovo o vedova, viva in casa con uno dei figli. Anche se non in casa, comunque, i nonni vengono generalmente nella stessa città di uno dei figli e sono oggetto delle cure familiari. Allora, Maite, tu cosa pensi? In Italia? In Italia, però qui, qui non è così. No, non credo, no. Qui la famiglia non è che sia una cosa molto importante, veramente. Ma effettivamente qui, anche per l'esperienza delle persone che conosco, è quasi diciamo comune che la persona anziana sia nelle case di riposo. Sì. Credo di forse in qualche famiglia italiana penso di aver sentito che c'ha i nonni a casa qui in Belgio, però sì. Non è sicuramente non è una cosa, diciamo, che la famiglia qui non è una cosa molto importante, anzi non lo so, è proprio una cosa stranissima, eppure la gente gli piace sapere che in Italia la famiglia esista, ma non riescono a farla funzionare qui, insomma. È stranissima sta storia. Prima forse sì, avevano la nonna in casa o almeno veniva a mangiare una volta alla settimana, ma in genere i genitori anziani poi li mettono in una casa di riposo e chissà quando vanno a trovarla, insomma. Sì, ogni tanto se ci pensano, che ne so. È una cosa molto, molto diversa, molto diversa. E volevo chiedere a Francesco, secondo te il pasto come momento, diciamo, di unione della famiglia è importante? Ah, spero ancora di sì, che questo valga tuttora. I pochi momenti di dialogo, secondo me, si racchiudono proprio in quel momento in cui c'è il pranzo, c'è la cena, dove ovviamente tutti inevitabilmente devono per forza rimanere uniti e restare sia a, però, diciamo, a godersi quel momento. Però bisogna tenere il televisore spento, se no si guarda. Il televisore potrebbe anche essere ignorato, per molti potrebbe essere solo un fatto, diciamo, una fissa che comunque deve rimanere acceso, ma non perché lo si debba necessariamente guardare. Si può ignorare, si può tranquillamente dialogare, pensando ovviamente a risolvere se c'è qualche problema tra uno dei familiari. È arrivato il momento di una pausa. Rosanna, che ci fai sentire? Allora, vi faccio sentire un brano di Fiorella Mannoia, che a me piace molto, sì. E si chiama Quello che le donne non dicono. Mi raccomando, rimanete sintonizzati su 101.9, la frequenza mediterranea di Bruxelles, e noi ci ritroviamo fra pochissimo. Questa era la canzone Quello che le donne non dicono, canzone molto famosa di Fiorella Mannoia, che è stata presa appunto da un tour che ha fatto insieme a Pino Daniele, Francesco De Gregori e Ron qualche anno fa, quindi era in diretta. Allora, nella trasmissione di oggi dei colori dell'anima stiamo parlando di famiglia e abbiamo preso appunto qualche informazione, tra cui appunto delle informazioni dell'Istat. Dunque, intanto, prima di riprendere l'argomento, vi ricordo che se volete trovare informazioni su Radio Alma, ma in particolare sulla trasmissione I colori dell'anima, vi consiglio di visitare il sito web radioalma.eu.icoloridellanima, tutto attaccato. Se volete telefonarci 02 345 2656. Allora, stiamo parlando di famiglia, come dicevo, e secondo un documento prodotto dall'Istat sulle tipologie familiari, numerose appaiono le trasformazioni all'interno della famiglia che caratterizzano il processo di cambiamento in cui a mutare sono i ruoli, le strutture, i percorsi di formazione. In tale processo ciò che si mostra evidente è l'aumentare del numero di famiglie che erano 19 milioni e 870.000 nel 1988. Sono poi diventate 22 milioni e oltre nel 2003 e sono diventate successivamente, gli ultimi dati disponibili sono quelli del 2006-2007, oltre 23 milioni. Quindi diciamo che in meno di 20 anni si è passati da 19 milioni di famiglie a 23 milioni, insieme al diminuire delle loro dimensioni. E io devo dire, Anna Maria, che quando penso a questo fatto, cioè diminuiscono le dimensioni delle famiglie e aumentano le dimensioni delle macchine, non so se tu ci hai fatto caso, che si vedono spesso questi una SUV, macchina pro capite. Sì, una macchina pro capite, ma proprio è vero che adesso vanno di moda queste macchine con delle dimensioni molto grandi, ma proprio spesso ci sono due o tre persone dentro. E si passa quindi da un numero medio di componenti pari a 2,9 nel 1988, quindi diciamo circa tre persone nella media, diciamo, per ogni famiglia, a 2,5 persone nel 2007. Esatto, e come è noto infatti crescono i single, che da 19% arrivano al 26%, vale dire che più di un quarto delle famiglie è costituito da persone sole. L'incremento si registra anche fra le coppie senza figli, il 17% nell'88, nel 2003 il 19% e fra il 2006 e il 2007 sono arrivate a rappresentare il 20%. Invece sono in diminuzione le coppie con i figli, che oggi rappresentano il 38%, e seguono poi le famiglie monocomponente, cioè quelle formate soprattutto da anziani soli e dai single, che si parla infatti di circa 6 milioni e qualcosa di individui, rappresentano un quarto del totale. Crescono le famiglie costituite cosiddette da libere unioni, cioè unioni non sancite da un matrimonio, e quelle ricostituite, cioè formatesi dopo lo scioglimento di una precedente unione coniugale di almeno uno dei due partner. Le prime sono oggi pari al 4,6% e le seconde al 5,6% contro l'1,8% e il 4,1% della media del 94-95. Sì. Un altro aspetto importante della famiglia moderna è la prolungata permanenza dei figli adulti, celibi o nubili che siano, all'interno della famiglia, che è da una parte è una conseguenza dell'allungamento dei tempi impiegati per il percorso formativo e dall'altra è una fisiologica evoluzione dei rapporti tra le generazioni. Sono sempre meno gerarchici e sempre più solidali. In tempi più recenti a questi fattori sembrano aggiungersi la difficoltà d'ingresso nel mondo del lavoro, l'allungamento dei tempi necessari all'acquisizione di una posizione lavorativa stabile e un'abitazione economicamente accessibile. Il processo che ha determinato il progressivo incremento della permanenza dei giovani adulti in famiglia comincia però a segnare il passo. Dal 99 al 2003, infatti, l'incremento risulta molto meno accentuato rispetto al periodo precedente, che è compreso fra il 93, il 94 e il 98. Diminuisce lievemente fino a 24 anni la quota di giovani adulti ancora in famiglia. A questo rallentamento si associa anche una maggiore propensione a uscire di casa dei genitori per vivere da sole o in una coppia non coniugata. Cominciano dunque a diversificarsi anche le modalità di costituzione delle nuove famiglie, mentre la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, il calo della fecondità e l'instabilità coniugale rimettono in discussione i percorsi di vita familiare e individuale. Allora, e poi, oltre a quanto hai detto tu, Anna Maria, e sempre secondo l'Istat, i matrimoni celebrati in Italia sono stati 230.000 nel 2009 e poco più di 217.000 nel 2010. Questi però sono dati provvisori. Si tratta di 3,6 matrimoni ogni 1.000 abitanti. In soli 2 anni si registrano quasi 30.000 matrimoni in meno, perché appunto vengono fatti i confronti con il 2008, quando erano stati registrati 246.613 matrimoni, cioè 4,1 per 1.000 abitanti. Sempre nel 2009, invece, le separazioni sono state 85.000 e i divorzi 54.000, con un incremento rispettivamente del 2,1 e dello 0,2% rispetto all'anno precedente. Si tratta comunque, soprattutto nel caso dei divorzi, di incrementi molto più contenuti rispetto a quelli registrati tra il 2007 e il 2008. Allora, qui diciamo ci vorrebbe qualche considerazione. Queste, come abbiamo detto prima, sono delle statistiche, delle informazioni abbastanza conosciute. Non diciamo niente di nuovo, vero Maite? No, no. Tutte queste informazioni, sai, sono fatte talmente tanto tempo dopo. Io vedo bene, quando dai un'informazione, le informazioni vengono fuori 3 anni dopo. Ma cosa è successo in questi 3 anni? No, dai, per piacere. Mi sembra strano che delle persone intelligenti come voi si basino su queste statistiche. Mi dispiace proprio di dirvelo. Ma le statistiche sono importanti perché... Tu cosa ne pensi, Francesco? Non penso che certe statistiche vengano fatte così a naso. Credo che siano fatte almeno un po' sulla base di una realtà, dei dati di fatto. Sì, ma sai, quando interrogano le persone, io non ci credo alle statistiche, in genere non ci credo mai, ma insomma, se voi ci credete... Mi associo. Ecco, ok, meno male. Ma le statistiche non è che ti servono per, diciamo, non è il numero arido che ti dà un'informazione, è una tendenza che tu certo, puoi vedere. Certo, no, ma capisco chiaramente quello che volete dire. Queste statistiche le devi raccogliere, quindi non è una cosa che puoi fare improvvisamente, è come la ricerca in un certo senso. Certo. Non è che tu fai la ricerca e domani trovi quello, ci vogliono anni per pubblicare dato della ricerca. Certo. Poi che tu mi vuoi dire questi numeri non mi dicono niente, ok, è soltanto facciamo una osservazione della popolazione, però non una osservazione basata sulla nostra diciamo esperienza diretta o probabilmente oserei dire su dei qualunquismi. Osserviamo basandoci su dei dati che sono stati raccolti da un'agenzia seria qual è l'Istat in Italia, che è quella riconosciuta a livello nazionale per questo tipo di statistiche. Certamente osserviamo, al di là di quello che pensiamo anche per le persone che sono vicine a noi, che effettivamente è così, che i matrimoni sono in diminuzione e che allo stesso tempo i divorzi sono in aumento. In aumento. Poi appunto Anna Maria leggeva prima invece a proposito dei figli che vivono in casa, che in Italia, ecco, quello che si dice sempre, che i figli restano in casa fino a tardi per vari motivi, perché non hanno una indipendenza economica che permette loro in molti casi di andare a vivere per conto proprio, però pare che in questi ultimi anni stiano facendo un po' diversamente, cioè si siano diciamo così svegliati pure gli italiani, i nostri coetanei o e più soprattutto giovani. I maschi che rimangono a casa. Sì, vabbè. Sempre stato, anche purtroppo... tempo mio, erano sempre i maschi che rimanevano appiccicati con la mamma. È più facile, scusa. Beh, certo, certo. Ti fa da mangiare, ti pulisce i vestiti, ti fa tutto. Che va a stare da solo? Sì, no, ma poi anche quando vivono da soli, magari, secondo me è molto frequente, almeno, e questo lo dico per esperienza, quindi non perché l'ho letto, che poi se ne vanno il fine settimana dalla mamma, ecco, e dal papà, gli portano le camicie da lavare e da stirare, quindi queste sono delle cose che succedono ancora, però insomma... Anzi, a me mi diverte questa storia, anzi sono convinta che se quelli di qui lo potessero fare, lo farebbero anche loro, non credere. Perché non rivolgiamo una domanda anche a Jacopo? Sì. Per esempio, lui adesso magari sarà anche un po' piccolo, però qual è la sua aspettativa di età per uscire fuori di casa, per essere indipendente e Ecco, Jacopo, autonomo? a che ora vuoi andare via di casa tu a vivere per conto tuo? A 20 anni. Ecco, allora, quindi Vabbè, tra 9 anni, abbiamo giusto? tempo, eh. Va E bene. vabbè, ma devi finire di studiare prima. Vedremo tra 9 anni, eh. Va bene. Comunque, insomma, sei bravo, perché vuol dire così che già a 20 anni te ne vuoi andare via di casa, che mi sembra una cosa buona. Allora, io direi che dopo queste critiche di Maite al sistema di statistiche, direi che possiamo fare ancora un brano musicale. Ci ritroviamo fra pochissimi minuti. Mi raccomando, rimanete sintonizzati sulla frequenza 101.9 di Radio Alma mentre state ascoltando I colori dell'anima, e vi ricordiamo che resteremo in vostra compagnia fino alle 22. A dopo. Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò. E senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu. Ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. Senza fame, senza sete, e senza ali, e senza rete, voleremo via. Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero nero, si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. A altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. Senza fame, senza sete, e senza ali, e senza rete, voleremo via. Grazie. Anche questa era una canzone, penso che molti conoscerete, La donna cannone, canzone di Francesco De Gregori, sempre tratta da un CD che è stato realizzato qualche anno fa, live, Pino Daniele, Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia e Ron in tour. Allora, state ascoltando la trasmissione I colori dell'anima, dedicata oggi alla famiglia e ad un altro tema che cominceremo tra breve. Vi ricordo che I colori dell'anima è una trasmissione che va in onda ogni lunedì dalle 21 alle 22 sulla frequenza appunto Radio Alma 101.9. E oggi sono in compagnia di un po' di ospiti che, con i quali appunto stiamo parlando di questo argomento, ma darei la parola a Anna Maria. Bene, ora vorremmo introdurre un altro argomento. Vorremmo parlare di una tendenza abbastanza recente, legata più che alla struttura familiare, al modo di vivere. Si tratta della coabitazione, meglio nota col termine inglese di co-housing. Vediamo di che si tratta. Il co-housing è un modello di vita sociale che tende fondamentalmente ad aumentare le opportunità relazionali. Per esempio, permette ai bambini di crescere in contesti con altri adulti oltre che ai genitori e promuove l'autonomia e il ruolo attivo degli anziani. Investe poi sui valori come la solidarietà e la condivisione, come strumenti per contrastare l'isolamento e la solitudine e le patologie ad esse spesso correlate, parliamo di prevenzione di disagio psicologico. Privilegia l'adozione di metodi di costruzione ispirati alla bioarchitettura, quindi sensibilità ambientale. Stimola la partecipazione collettiva alla progettazione e realizzazione di spazi individuali e comuni e tende a ridurre costi e consumi per i singoli e per la collettività. In pratica, l'esperienza si concretizza quando più persone eterogenee, coppie giovani, anziane, famiglie con figli, singolo, con oppure senza figli, decidono di creare una realtà abitativa con spazi privati e spazi comuni, con l'obiettivo di uno stile di vita meno individualistico e più sociale e solidaristico. Allora, quindi i coabitanti, che appunto spesso poi preferiamo, non so per quale motivo, il termine inglese co-housing, ma chiamiamoli coabitanti, possono partecipare alle assemblee, possono realizzare laboratori, ad esempio officine di riparazione, luoghi di uso comune come lavanderie, stirerie, palestre, biblioteche. Si può anche decidere di aprire occasionalmente tali spazi agli altri abitanti del quartiere, in occasione ad esempio di cineforum, mostre e seminari, al fine di favorire la socializzazione e l'integrazione sociale. E tra gli spazi comuni figurano anche giardini, terrazzi, orti. La solidarietà si manifesta nella quotidianità. I co-houser, quindi coabitanti, si aiutano reciprocamente, si frequentano, organizzano occasioni di incontro, pur mantenendo l'assoluta indipendenza del proprio spazio abitativo. Particolare attenzione viene data alle cosiddette categorie fragili, quali anziani e bambini, tipo per servizi di babysitting e ludoteca. Questo tipo di esperienza è ormai consolidato in molti paesi, fra i quali la Danimarca, che è il paese in cui è nata l'idea nel 1960, la Norvegia, il Canada, gli Stati Uniti, l'Australia, l'Olanda. Su internet è possibile documentarsi approfonditamente. Esistono varie forme di coabitazione, dai condomini solidali ai villaggi ecocompatibili, ma in genere ci sono alcuni criteri irrinunciabili, come abbiamo visto prima: l'esistenza di spazi comuni, l'attenzione agli aspetti legati al risparmio energetico e il rispetto ambientale. Un esempio importante di ecosostenibilità, di bioarchitettura e progettazione partecipata è il quartiere Vauban di Friburgo, nel quale gli architetti continuano ad operare lavorandoci e vivendoci. Durante l'International Conference on Collaborative Housing di Stoccolma, di maggio 2009, è stato evidenziato che il co-housing si sviluppa tuttora seguendo percorsi e criteri diversi a seconda del contesto. Il punto comune delle varie esperienze nazionali rimane però la volontà di avere un progetto abitativo che sia collettivo e partecipato. Allora, io ho trovato questo argomento del co-housing, della coabitazione, estremamente interessante. Certo, mentre lo dico, vi dico anche, ma è possibile che nella tendenza che abbiamo oggi all'isolamento, all'intolleranza, a mettere, le griglie alle finestre perché abbiamo paura che vengano i ladri, in questa tendenza, ha senso questo co-housing? Cioè, c'è gente che ha veramente voglia di mettersi insieme ad altre persone, quindi sarei un po' scettica. Probabilmente, mi dico, nel nord Europa funziona. Comunque vedremo anche poi se ci sono dei casi di questo genere in Italia. Tu, Maite? Io veramente una cosa che mi interessa, a me mi interesserebbe veramente di vivere così. È un po' come in Israele, nei kibbutz, in fin dei conti, per conto mio si sono ispirati lì per fare queste co-housing, come dite voi, coabitazione, perché il kibbutz è così, il kibbutz ognuno ha casa sua, ma lavora per tutti, non c'è, è già un po' diverso lì, perché non ci sono soldi, lavorano per mangiare, per vivere, per andare a scuola, non sono pagati, è un po' diverso, ma voglio dire, l'idea era lì. Io personalmente, quando ero molto giovane, avevo chiesto di andare in un kibbutz ai miei genitori, che mi hanno preso per una pazza, ma ci sarei andata molto volentieri e probabilmente ci sarei ancora, perché è una cosa per me molto interessante. Io lo farei sto co-housing? Io non lo so, probabilmente no, credo di no, non lo so. È bella l'idea, ma penso anche che uno deve superare una serie di limiti, certo. Deve essere molto molto tollerante, secondo me deve avere un grande spirito di apertura, però chissà, magari con esercitandosi forse si arriva anche a diventare così, e sicuramente l'idea è bella, cioè quella di vivere da soli però allo stesso tempo in un ambiente condiviso con gli altri. Ma ci sono in Italia questi? Sì, lo vedremo fra poco, Maite. Ah. Allora, intanto però propongo ancora un altro brano musicale, cambiamo un po' genere. Adesso ascolteremo un brano di un gruppo che si chiama Musica Nova e ci ritroviamo quindi fra pochissimi minuti. Mi raccomando, rimanete sintonizzati sulle antenne di Radio Alma con i colori dell'anima. Allora, e questo era il gruppo Musica Nova con un brano che si chiama Vento del Sud. State ascoltando I Colori dell'Anima su Radio Alma 101.9 in compagnia di Rosanna e oggi anche di Anna Maria, Francesco, Jacopo e Maite. Allora, stiamo parlando di coabitazione e tra l'altro volevo anche dire che per questo argomento abbiamo scelto il colore arancione nel senso di caldo, di avvolgente, perché abbiamo parlato anche di famiglia e in fondo la famiglia è il luogo dove ognuno di noi è cresciuto, dove si è sviluppato, dove ha sviluppato le proprie idee, il primo nucleo che ha incontrato, diciamo, crescendo. In Italia, e stiamo appunto parlando invece adesso di coabitazione, abbiamo visto che la coabitazione, Anna Maria ci diceva, che si è sviluppata nel nord Europa, in realtà però sta prendendo piede anche da noi. In Italia, infatti, il concetto di coabitazione è recente, ha cominciato a diffondersi intorno agli anni Ottanta, grazie ad alcuni documenti di autori come Mathieu Littartelt. Varie località italiane si sono costituite da alcuni anni associazioni di promozione del co-housing, e in particolare dei capoluoghi di provincia come Firenze, come Roma, Varese, Bologna, Milano, che hanno avviato azioni di sensibilizzazione e collaborazione con le amministrazioni locali. Tra queste merita di essere segnalata l'associazione Mondo di Comunità e Famiglie, MCF, Mondo di Comunità e Famiglie, che deriva da una delle prime esperienze di co-housing, la storica Villa Pizzone di Milano. Maite, senti? Sento. Era il 1978. Tu non so se hai mai sentito parlare di questa Villa Pizzone di Milano. No, io no. Non ne ho mai sentito parlare. No, ma insomma, sai. Comunque, evidentemente, già nel 78 c'era questo prototipo di co-housing a Milano. Le associazioni italiane ad aprile 2010 hanno deciso di dare vita ad una rete nazionale del co-housing al fine di fondere l'impegno di quanti si impegnano in questo stile di vita coabitativa, documentare e diffondere informazioni sulle realtà e i progetti esistenti attraverso il sito, fornire spunti ad aspiranti co-houser. Allora, nel 2007 è nata a Torino l'associazione di promozione sociale Coabitare. Soci fondatori sono professionisti provenienti dai vari ambiti, sociosanitario, architettura, urbanistica, marketing, eccetera. Hanno l'obiettivo di diffondere il modello della coabitazione, a partire dalle esperienze già avviate in altre località italiane, soprattutto in Lombardia e in Toscana. Nel sito della cooperativa si dichiara che il co-housing consiste prima di tutto in uno stile di vita, una modalità abitativa e di relazione con il prossimo, una scelta di cittadinanza attiva che investe sulla condivisione e sulla solidarietà come antidoto contro l'isolamento, la solitudine, la diffidenza e la paura. I pilastri del progetto sono, in linea con la filosofia del co-housing, il metodo della progettazione partecipata. Nel caso di Torino, professionalità indispensabili come ingegnere, sociologo, commercialista e architetto sono presenti all'interno del gruppo e non è quindi necessario reperirli all'esterno. E poi la gestione dei conflitti. Le decisioni vengono condivise, mediate costantemente. Per chi voglia approfondire, potete consultare il sito www.cohousingnumero0.org oppure www.coabitare.org. Allora, quello che io trovo interessante, diciamo, di questo metodo, e sono curiosa di vedere se funziona, e almeno in questa realtà di Torino sembra funzionare. C'è questa associazione di promozione e, come abbiamo visto, come ci diceva Anna Maria, dove però all'interno del gruppo esistono varie professionalità che aiutano tutta la comunità, effettivamente. Quindi c'è l'architetto, c'è, come dicevi tu, il sociologo, c'è il commercialista, e in un certo senso questo dovrebbe anche aiutare al risparmio, perché poi uno c'ha tutto in casa e non deve andare fuori a cercare degli altri esperti. Qui non c'è scritto, ma insomma probabilmente c'è anche il medico, ci sono anche altri tipi di professione. Che è molto interessante, ripeto, se funziona. Io personalmente ho qualche dubbio, ma voglio vedere come vanno avanti queste realtà, e al solito poi le città italiane, diciamo, quelle più impegnate anche in altre iniziative, sono anche all'avanguardia in questa struttura. E se poi funzionano ci vai anche tu, Maite, vero? Sì, sì, ci vado anch'io. Ma bisogna che a mi Milano, Se potete dare di nuovo il siti, così la gente se li può scrivere. Uno è cohousingnumero0.org e l'altro è coabitare.org. Quindi questo coabitare.org è molto semplice da ricordare, www.coabitare.org. Quindi Maite, studiati, poi se lasci Bruxelles e te ne vai ad abitare da qualche altra parte. Poi vengo a raccontarvi cosa succede. Ecco, ce la viene. Ma io so che anche in Belgio ci sono dei progetti, sì, non so sì, se ma sono io ancora stati in Belgio, realizzati. Non credo che credo che siano multiculturali, immagino. Sì, sì. No, è probabile. È probabile, sì. Beh, la sfida è ancora di più se è multiculturale, immagino, chiaramente, no? Chiaramente. No, bisogna guardare, bisogna vedere, no, non lo so proprio. Possibile che esistano anche qui, perché no? Vabbè, comunque penso che sono da tenere d'occhio e sono in ogni caso da ammirare, perché sono una controtendenza di come la nostra società adesso. Certamente l'episodio che c'è stato in Norvegia l'altro ieri è proprio un eccesso, oltretutto, di questi sintomi di intolleranza, di isolamento, di pensare da soli di fare tutto. Quindi contro questi estremismi ben vengano invece degli esempi belli di gente che ha voglia di mettere a disposizione il suo sapere per delle altre persone, quindi non necessariamente o non solo per guadagnare, ma anche per il bene di una comunità più ampia. Allora, io volevo ricominciare con il ringraziare tutti. Volevo ringraziare in particolare un ragazzo di 11 anni che mi sta di fronte, che si chiama Jacopo. Jacopo, allora, cosa pensi di questa esperienza radiofonica? Pensi che ti può piacere parlare in radio? Sì. Può piacere, va bene. Allora, magari se torni anche l'anno prossimo qui a Bruxelles, vediamo se si può fare. E buonasera Jacopo, allora. Buonasera. Buonasera. Ecco, bene. Poi volevo ringraziare Francesco per essere venuto questa sera in radio. Beh, anche grazie a voi per avermi ospitato, è stato veramente un piacere. Ecco, benissimo, grazie di essere stato qui a Radio Alma. Volevo ringraziare Maite che ogni volta non perde occasione per punzecchiare, giusto? Beh, ma ti ho invitata apposta. Il mio ruolo in genere. In genere è questo, quello di punzecchiare. E poi volevo ringraziare ovviamente Anna Maria che al suo, forse no, non è il debutto radiofonico? Sì, sì, per me è un debutto. È un debutto radiofonico, va bene, quindi sono contenta che tu abbia cominciato con me. Questa è anche l'ultima trasmissione dei Colori dell'Anima, prima delle vacanze estive, perché appunto da lunedì prossimo siamo già ad agosto, quindi interromperemo per tutto il mese di agosto e ovviamente con questo non mi resta che fare tanti auguri di buone vacanze a te Maite. Grazie, anche a te. A Jacopo, a Francesco. Grazie. E a te Anna Maria. Grazie infinite. Grazie. Tanti auguri, buona serata a tutti e mi raccomando, ritrovatevi con noi qui a settembre con I Colori dell'Anima ogni lunedì dalle 21 alle 22. Buonasera a tutti da me Rosanna e a presto.